Holy soul and scary monster of the street, walking, walking, walking with me. There's a ghost of a Shakespeare on the theater. Yes, I'm a black and bizarre girl. Oh, oh. Black and scary pain in my drama. I'm a pencil blue now, blue, like all you crew now. Daddy creeping, crawling, teacher. Sono un fantasma dell'opera tipo Dario Argento, tipo il sospira, sospiri rondini nel vento. Uccello di Hitchcock, divorali tutti, ma li vogliamo tutti morti, tutti morti. Vedo zombie e da creature now in your little mind. Baby, you are little zombie. This softly right now, symphony black for you to quiet your zombie. Keep the breaks up for the depression of you. Creeping, keep crawling, daddy teacher. They dishonor my purpose. So learn to pan now, only teach you now. Wow, wow, bow, yeah, what right now is the end picture. Or fine agent pages right, and the sound of my magic black voice disappeared in the space now. Wow, wow. Disappearing in the space now, yes now. Disappearing, my hands push me up on my fear. I don't have of a fear of daddy creature. I was born like a dead boy. I'm a ever again of my paradise. I'm putting some heads to head now. Dead now to live forever. Death for law to be an immortal hero. Oh. Feel right now. I'm back page over, try to resuscitate is me again, but I feel it back down. With the old back boys in a baby gang now, like a boss in a baby black gang, with an arrow in a substance. Right now we are all super dope stars now, in an underground, underground, upside, full down. Luciferi girl, smile now. And smile up with you, the dead boy. A step with the dead boy is a step loose. Follow the dead boy to go to the doors, black doors of the eternity. Wrong side to eternity. An abandoned page of anonymous eternity. Old man, drinking lonely on your room now. Oh, pray, a black pray, a black pray for me. Purchase your beef now. Walking around, back steps. Walking back forward, your step. 1, 2, 3 now. Whisper, whisper of the night. Creep and crawl and creator eye. Black whisper up here. Desperation, girl, up your face. That is your page rot in me. That is with mother in me. Daughter, a miracle. To my brain, oh, still I display me on you, on you, on you, the umpire display me on you, flow dentro al blues, it's a flow dentro al blues. Perciò me ne frego io, vorrei impiccarmi ma non so, passa una col che mi faccio un buco in testa, sono un teschio con una serpe rosa che sorride a cerchio. Sono eternità di un trino scuro, il Gesù manifesto, Santo Spirito inverso detto qua, è un Padre nostro un po' più là, padre della scheda e della madre. Non piangere ora, i nostri corpi non troverà la morte fra. Come una pasta al sugo con vermi per l'eternità. Prepara il tuo vernaculo per Dracula. Versa un po' di brandy nel nome di Satana. Nell'oscuro viaggiano tre porcellini che fanno una capanna peggio della prima, della terza e della seconda scelta. Meglio fare un black stavolta, fra. Hai detto un numero tipo 2 di piche, che chi si suicida una corda al collo metterà. Ah, ah, ah, ah, non riderai più quando vedrai acceso il mio nero lulu. Oltre notte, oltre le botte, io vedrò di mio padre, di mia madre, Don Chisciotte, che cerchi la tua anima qua. Fratello, io sono anima santa, ma spazzo per terra come luciferina. Grida, vermi tolgo in una oscura cantina. Sono la tua Geisha. Frate, sembro un verme che striscia sotto i piedi di questo. Don Chisciotte e la sua conquista. Oh, ma fa cazzo, non mi ricordo, fra, come uno che ha studiato poco ma che mette a fuoco nero sotto vuoto un corpo morto del mio rivale. Nel macello di questo abisso ti disintegrerò tipo un crocifisso all'inverso nel sacco per bloccare lo sesso. Sono il genio, la follia. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Oh. Senti, Daniel, comprendio, sono il dandy black hole, all our rules. Lofra, vai, vai, vai forte su questa traccia, mamma mia, che Lofra, oh oh, oh oh, vai forte su questa traccia, oh mamma mia, mamma mia. Oh, ti toccherò qua là, più della stessa psicologia nera oscura. Oh, mamma mia, let me go. Don't cry for me, mamma. You can dream is now my drama. E la voce esploderà fra, sussurrando qua e là. Diventerò il tuo incubo, un sacco ti metterò blu. Con un fiocco rosa della mia lady, il compleanno non è per te, non sei tu, bro. The black inside, you're the Morgan. Type at the piano with the words on my hands. Ta-ta. The black indaco in a house. I'm black. Ti sacrifico nel nome degli Inca. d'Apocalisse Giovanni. Capitolo degli angeli dell'Apocalisse. Qui vi si presentò il primo angelo della morte. Ivi secondo angelo qui vi si presentò la spada della sorte. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ivi qui vivi si presentò. Lasciatemi intonare. Freestyle Black Curse of Destruction. Ah. Il terzo angelo con una libra, una bilancia, misurava il grano e la moneta e disse: non fate Babilonia, brucia, se il grano peserà più della moneta in vano. Wow, questo re mi fa strano. Ciao. From the up and down I'm a go. Deep and cry down. E quivi, per ultimo, il cavaliere di giustizia con lo scudo e la spada. È un'armata di angeli. E disse: Babilonia mia, risorgi come di Giovanni. Mente sana parlò con mio nazi. Holy shit. Scriverai discepolo, intingendo nel sangue della mia tomba versi di Biblia, petali sparsi, neri persi, inversi, riversi. Black girl, white. Don't cry, don't cry, don't cry for me. The life of your white tears, the life spiraled off from my soul. Now black dress in the white show. Oh, black dress in the white show. Oh, and I'm mortal. Cathedral bird, dress in black with black shoes in a white shoe. Run your red carpet, oh. Oh, the angel of Apocalypse, wind up back. Running vanity in my life again, with a way back old as my with Lucifer. You can see me resurrect again. Listen, man, offer my charity or in my black holy church. In the name of Saint Spirit, from the left and right, in the name of deadly paradise. Do not go gentle into that good night. Here's a black prayer for you. Your crane, your skull is bloody without a, without the pink serpents I kept you to you. God, you bless now, 'cause I'm all back in down with her. Daddy black boy, run away from me, 'cause I'm a devil. I saint, but I'm a senior devil. Listen on my lips, this is a crazy thing. And all is can monster teacher teach a lesson, blood, yeah. And this is new world. Daddy blood, don't cry, not now. Take your fear away. The ex of my new girlfriend keep you, get back and run away from me, 'cause I'm a devil. With the wings of devil ti troverò pure una nuova ragazza se vuoi, ma se no necrologio di te scriverò ogni mio verso senza rimorso. Per te diverrò lo stesso uomo avvisato, meno rotto, meno morso. C'ho il linguaggio di un serpente, un tuono selvaggio, un bacio selvaggio, un morso. Prepare the table of the Satan dinners. Someone call 911 to my insanity. Yo. Oh. Bro. No comment down my trap, bro. Prima che parte sta strage, lascerò il tuo sangue sul carpet come sacrificio a un aco nero, a un aco nero. Vestirò il destino nero, mi rimane dentro un flow, che pure al devil show, al black inside portero, no, vedrai, diventerà invisibile pure a me, a lei, un amore dimenticato nel vento, pur io. Verso il sangue di un nero dio. Nero Anunnaku. whisper on the crawling monsters. Crawling creature on the ground. Step by step, a scratch from my feet now. And now my black voice. Be careful what choice. If I speak into your right, I may destroy you. Take a wish. 1, 2, 3, wish. Next, the genius of the lamp. Maybe you can desire wrong. Oh, due. Sceglierai l'amore. 3. Sceglierai il denaro. Ma prima di tutto, salute. Ricorda, ho sacrificato questa sorte mala per te. Bimbo loco, corri al tuo gioco, non fermarti e vola via da me. Sono il lupo, sua santità del male, ma il peccato bimbo mai con non sei te. Che purezza risplenda in tua sorte, e mala mia, io morente per tigo, mi suiciderò per Next Generation Sacred Suicide on me. My black sir. Lord of the darkness, take your care what you wish for. Lady Darkness, pass the doors with me now. Take my left hand. I feel your heartbeat tread like a blood running back in my veins. Super vanity, you make me purple ray from the point of infinite to me wet now. Is it what is that? A good death now. Children of the future, you keep careful by your future eye. Daddy, see this scream now from my bizarre voice that right now means on my head. Daddy, buy my car. Daddy, buy my love. Daddy, buy my sweet home. Daddy and my girl need to be carried to keep with me in touch. Cause my sing is super black trash. Fresh touch of your lips like a kiss with a blood and red lips to lips now. Be careful with the black lips to lips, the lips, the lips, the lips, the lips. A dead boy can be between us, my love. Is the sacrifice of our kiss now? Run away from my lady darkness. santita del mare. La mia ossessione forse ti potrà turbare. Soy maledetto loco, el verme soco, è ricco al croco, dal tuo al dandiloco. Io sono il fuego, attento bimbo io, con una sola mano tipo Gesù nel deserto, come bimbo mago. Io te invano dico ma la suerte muori, chico cattivo muori. Ho visto black cultural paper on my right. Let's go. Even that is super my fight. In vain, running through my vein, running through my vein, running through my vein in the right eternity. This bagpipe for backbird is the sound of my perfect back team. Oh, bro, su questa frase schizzerò tipo oh, non so che sto cantando ma oh, mi dà il coraggio e il flow. Oh, tocca a me, fammi fare un po' di rap su sta base tipo te, rap. Oh, black side of the white church and now I'm mi son mangiato. Scusami maestro, ma la tua chitarra un pasto noto, nobile di sangue. I think I'll be loyal with and Gandhi a pass. I'm hungry of love and much evil than you. This is my devil possess my voice now. Be careful, fight me now. You can die in a line of freestyle with me. You can die in a line of freestyle with me. Better choice the line of cocaine. Abuse can dress you with a sacrifice of my servant. Die, die servant for a rich and a Gucci forever is a dress of you rot with my rockstar clothes. Mi sta dando i brividi, io pago i lividi. Bimbi del mondo, bimbo perso l'occhio, ritrova la ragione della mente, della creatività in fuori. Orfano loco, su una canzone ti sei perso un poco di un altro il fuoco torna. da tuo padre torna la ragione. Sveglia, sveglia, sveglia ti alla ragione. Mi scusi se certe volte l'evil mi fa pensare un po' storto. Al contrario, sì, la vita c'è morto. Non puoi uccidere un verso se è morto. È già eterno, è già risorto. Uno zombie vivrà sempre per sempre. Quei vermi, anzi, un serpente rosa di un teschio che brucia nella mente. Come Pinocchio il suo... Ah, beh, c'è Dario, scriverò Dario sul mio diario. Tu scrivevi ti voglio bene, io ti ricorderò per a ti amo. Perso nei sogni ricordo che ti sacrifico. Sui miei versi tu vicino l'hai fatto. Credi, potrei distruggerti con una mano così diversa. Scusate, Satana ha i suoi evil versi, inversi. C'è qualcosa di veramente matto tra i miei versi persi come petali black arsis o nassis. Nerone, Nerone, sono Dio, per te brucierei de fuego, ma tu brucia per me. E l'ordine viene anche dal Signore delle Tenebre. Brucia Roma i peccatori, diablo matto, diablo mago, diablo fatto. Diavolo di tarocchi, occhi miei occhi, occhi, occhi, ciò che scegli se scegli i miei occhi. Diavolo fatto, che come giochi black di tarocchi di quando bimbo io disegnavo i miei occhi dispersi. Zingaro bianco e i suoi versi. Black, now back. Black in black, back. Metal jacket, Tommy. Try to shout, but target well my mind. Where's the right, my love? Mira bene, anzi, se miri, prova a cercare pure i villaggi onirici della mia lady. Miraggi, tu mire dai miei versi, i miei saggi bianchi. Petali sparsi, le mie lacrime, se perderò lei nella vita e mi hai persi versi. Orfani come bimbi maledetti, i miei quadri e i miei versi. Poesie da bruciare quando è finita la vita. E se non se ne accorgerà la storia, tutto a rogo. Perché tu credi che verrò ricordato come un grande soldato, oh yes. E ti hanno detto così, forse, ho più nemici Che cicatrici ha? Non mi hanno ancora incontrato tutti. Io re dei farabutti. Te, serpe rosa sui venti. Mangia il mio cervello, nutriti dei miei talenti. Cresci e vivi con me. Io verso te, tu verso me. Siamo verso il 30, 69, più 10, più 9, più 6, 6, 6. Oh, yeah. This verse is nesane, black ecstasy.